Sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 2 minuti in questo preciso istante. Oggi è giovedì 24 maggio 2012. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera sempre dal mio consueto compagno. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, Blu Radio Mento questa sera ha l'onore di avere una cantante innanzitutto bellissima, lo posso dire, vero Cassandra? Sì. Grazie. E poi è bravissima, insomma, Cassandra De Rosa ci viene a presentare il suo semplicemente sole. Tu hai portato anche un po' di sole oggi, tra l'altro. Abbiamo avuto 3-4 giorni di pioggia e questa sera... Io invece sono nera, vedi? Sì. vado alle Lampados, Sì, ogni tanto. Beata te. Allora, i nostri dati tecnici prima di cominciare questa cavalcata in compagnia della musica di Cassandra. Vi ricordo il nostro numero telefonico, quello in studio, lo 049-875-6423. Mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandare qualche domanda, anche perché no, Cassandra, sei disponibile? Assolutamente sì. Perfetto. Se volete mandare qualche domanda, dicevo, qualche saluto a Cassandra De Rosa, che è qui presente questa sera fino alle 22.30, vi ricordo, è il 346-2320-033. Il nostro sito dove ci potete ascoltare in streaming è www.bluradiomento.it e le nostre pagine su Facebook sono semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è dedicata interamente al rock, gestita da Alberto Plisco, che succederà dopo di noi con la sua classifica, il suo programma di musica rock, e si chiama, appunto, dicevo, semplicemente Blu Radio Veneto Rock Wave. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questo per quanto riguarda chi volesse ascoltare tramite radio, altrimenti buon ascolto dallo streaming tramite il PC. Fascia oraria chiamata Blu Radio Sera con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con lei, Cassandra. Benvenuta, allora. Grazie mille, grazie mille. Fatto un buon viaggio? Sì, sì, sì, sono bella riposata. Allora, Maurizio. Benissimo, Cassandra. Sì. Tu hai inciso un nuovo disco, il disco importante, il disco che ti praticamente tu hai detto, hai fatto delle considerazioni molto belle, perché è un disco che è pieno di onestà, un disco che rispecchia e trasmetta energia e passione. Questo è quello che volevi fare in questo, e ci sei riuscita al 100% secondo me. Ah, bene, grazie mille. Perché quindi... questa tua voglia di far così il tuo primo, praticamente l'album di esordio? Esordio per intero, esordio alla grande. Beh, innanzitutto è un album che mi deve rispecchiare. Quando io canto devo sentire quello che canto, quindi oltre ai testi, agli arrangiamenti, abbiamo anche deciso di andare a Londra, quindi per dare ancora più importanza e un tocco qualcuno diverso. Dice nei luoghi sacri, certo. Musica. Sì, infatti, poi dove la sonorità appunto è diversa da quella che abbiamo in Italia, infatti c'è un, non so se si dice un equilibrio tra la musica e la voce in Inghilterra, quello che non c'è qui in Italia, per esempio, secondo me, e penso che sia così, perché quando ascoltiamo si sente molto di più la voce invece che la musica, invece sono due strumenti, no? Anche la voce è uno strumento e quindi va amalgamato con la musica. Certo, ma questo percorso, questo arrivo al disco, com'è stato precedentemente? Come hai cominciato questo percorso per arrivare a incidere un album? Ho cominciato da molto giovane, quindi con il piano bar, poi comunque andavo a scuola, quindi non potevo dedicare tantissimo tempo, avevo anche altre passioni, certo. Altre attività. Poi un bel giorno ho deciso di provare questa televisione, perché dicevo, a parte sarà impossibile entrare, quindi figurati, però lo stesso ho voluto provare, così ho fatto per 3 anni. Il mio complice in questa avventura è stato sempre mio padre, quindi insomma, che ti ha spinto, sì, praticamente. Sì, sì. E niente, sono entrata a far parte della scuola di amici, ormai sono 5 anni, e è stata una bellissima esperienza. Io pensavo addirittura di uscire dopo 2 o 3 giorni, di passare lì per caso, quindi invece ci sono rimasta da ottobre fino alla fine di marzo, quindi fino a 3 puntate prima della finale. Vinse Marco Carta quell'anno, quindi era l'edizione 7, dopodiché ho cominciato a fare concerti in giro per tutta l'Italia, ovunque, veramente, non potevo chiedere di più, di quello ero veramente felice. Una tua caratteristica è il live, tu ami particolarmente fare concerti, far sentire la tua voce. Sì, tanto, che poi alla fine diventa faticoso in quel modo, perché comunque siamo... spremuti come delle arance tutte le sere, quindi in una città diversa, però comunque c'è il pubblico, il piacere di incontrare i sostenitori che comunque certo. hanno votato, hanno speso soldi per te. E, sai che non tutti la pensano come te comunque, c'è chi rifiuta gli autografi pur avendo... Sì, conosco, conosco. Beh, non facciamo nomi. No, no. Vabbè, io faccio il mio, poi certo, Dio ognuno vede e provvede. Sì. E quindi niente, ecco, ho cominciato tutta questa serie di tour, poi ho conosciuto sia il lato bello che quello brutto, quindi diciamo c'è una sorta di magna magna su di noi, e poi dopo niente, ho voluto fare un EP. Sì, certo. E l'ho fatto con altri due autori della Warner, che insomma insieme a loro ho per metà autoprodotto questo EP che si chiamava Gocce in Mare Aperto. Dopo di quello, e poi il successo insomma era relativo, no? Cioè non però è che avevo... Ma c'è stato un successo relativo, però è già il tuo nome ha cominciato a circolare. Sì, ha cominciato a circolare, infatti per esempio anche su insomma trasmissioni dove tra l'altro non avevamo neanche promozione di questo disco, hanno cominciato a parlare del disco... per volontà propria, quindi è stata una grande soddisfazione. Immagino. Per me. Poi comunque già lo trovavo in qualche negozio, poi ho fatto la presentazione alla Mondadori, Feltrinelli, insomma tutti questi posti, è stato molto molto bello. Poi appunto con questo disco è arrivata un'altra intensa estate, poi ho insomma a un certo punto però sentivo l'esigenza di fare qualcosa di più grande, ancora... Dico, cioè ho trovato parte della mia identità, ma non tutta. Penso che ancora dovrò lavorare molto e fare una ricerca un po' più approfondita, perché comunque... Ma credo che dovresti sempre mantenere questo aspetto, sai? Perché sì, così sì. non arrivi mai. E certo. hai sempre la voglia di scoprirti di più e di proporre cose tue. Certo, infatti io anche con questo ho proposto un altro lato di me, un lato un po' più pop rock, così abbiamo definito. Eclettico l'hai definito, eclettico. Sì, eclettico. Eclettico. E, vabbè, c'è qualunque tema, insomma, vabbè, quello principale è l'amore. Sì. Sembra scontato, però comunque è quello che sentiamo di più, quello che viviamo di più ogni giorno. Certo. E poi vabbè, ci sono anche altri brani che parlano della fra virgolette della diversità, poi c'è anche Cellule, c'è Bronx che invece parlano di altri temi, tipo vabbè, la criminalità certo. nei quartieri. Che poi è dedicata al nostro muro questa Bronx. Sì, esattamente, proprio a noi. Ma ne parleremo dopo. Quello però. È Marco Gabrielli. Esattamente. Che dobbiamo ancora salutare. Appunto, e tra l'altro appunto volevo ringraziare i miei due produttori della Mia Music, tra l'altro... Che è qui a Padova la Mia Music, giusto? Non ho mai capito se è Padova o dintorni, però... Dintorni. Figuraccia io sempre. E vabbè, comunque Alessandro Pagliaro e Marco Gabrielli, che appunto stasera è qui con me, che mi accompagnerà. Anche Alessandro, ma non vuole parlare. No, Alessandro non parla e non mi accompagna. Esattamente. Quindi è importante sottolineare l'eclettismo, perché è un disco pieno di tante cose, di tante facce, quello è importante. Sì. Tu sei cresciuta, cresci cercando di vedere, di toccare le facce diverse della tua musicalità. Sì, ma perché in effetti anche se sembra, non so, magari sembra brutto, però anch'io ho tante facce, no? Cioè, ma no perché uno deve fingere di essere quello che è, ma perché comunque cresci, provi emozioni diverse ogni giorno, fai esperienze diverse ogni giorno, quindi devi... Poi io sono una che si adatta molto alle situazioni, quindi anche se per caso... Che so, cioè il mio peggior nemico, io comunque sono sorridente e dico passerà, tranquilla. E quindi mi metto questa mascherina che però non mi pesa, sono sincera, perché anche in quel momento comunque riesco ad essere certo. me stessa. Ma è vero, sai quello che stai dicendo, che tu sei sempre allegra, sorridente? Io quelle volte che ti ho trovato in giro per internet... Sì, dovresti vedere quando sono da sola sì? che cosa non faccio. Piango tutti i mesi. Sì? Sì, no vabbè, c'è una valvola di sfogo certo. poi, non è che uno sorride sempre, ma tra l'altro perché mi fa piacere. Poi però a volte, siccome somatizzo tanto, mi trovo... a passare delle settimane che sono infernali e dico, mannaggia, ma devo cambiare. La valvola di sfogo è sempre la musica. La musica, la musica serve a lenire tutte le sofferenze, secondo me. Sì, assolutamente. Cosa dici, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Sì. D'accordissimo. Guarda, ma comincio subito fin dal divorzio dei miei ad accompagnarmi proprio. Certo, con la musica. Quindi mi accompagna veramente in ogni momento. Vogliamo ascoltare subito la tua sì. musica? Sì, ho scelto, o tu o voi insomma, avete scelto Quando tutto era amore, la canzone che chiude il disco. C'è un significato ben preciso? Sì, vabbè, quando per la tutto, chiusura sì, vabbè, quando tutto era amore appunto parla di una storia finita e quindi ricorda tutti quei momenti che hanno passato insieme e la mancanza che uno ha, forse sono anche le abitudini quello che può mancare a volte invece che l'amore. Io tra l'altro l'ho dedicata anche in un altro senso a mia madre, perché comunque insomma mi mancano delle cose che avevo con lei, perché lei adesso abita a Chicago, sì, magari è lì in ascolto, e mi manca, capito? Quindi quando tutto era amore, quando era qua, e adesso invece certe cose non posso più viverle, quindi insomma è anche una dedica a lei, basta. Okay. Ascoltiamo Cassandra De Rosa con Quando tutto era amore. Sì. Gioia e dolore si confondono. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci ancora qua con Cassandra con questo suo, diciamo, primo disco intero. Sì. Così sì. Evitiamo di fare confusioni con le IP, va bene? Va benissimo, va benissimo. Parlando di questo pezzo che a me interessava molto, innanzitutto è una rivisitazione da un pezzo di Saverio Grandi. Marco ne ha fatto un arrangiamento complesso, non è un pezzo semplice, Marco, decisamente complesso, con diverse chiavi di lettura, per dare la possibilità poi a Cassandra di dare la sua, di esplodere vocalmente. Sì, beh, sostanzialmente l'idea che abbiamo avuto quando abbiamo iniziato la produzione o la pre-produzione di questo disco era di rappresentare Cassandra dal punto di vista rock pop. Esattamente. Quindi abbiamo scelto per lei, lei ha scelto con noi dei brani oltre quelli che noi abbiamo composto appositamente, e questo era uno di quelli scritti da Saverio Grandi, e dato il testo, l'impronta vocale che Cassandra ha sempre dato a questo brano, l'idea era quella di crearne un arrangiamento effettivamente più rock rispetto agli altri. Sì, sì, leggermente si allontana rispetto agli altri. Esatto, e l'idea che ne abbiamo avuto, ne ho avuto, è stata quella di introdurre all'interno di questo arrangiamento degli strumenti che ripercorressero la storia degli anni 70 musicali. Mm. E non a caso si lega molto bene con Londra, quindi l'utilizzo del mini Moog all'inizio, bello, o comunque bello. Quell'ostinato finale violino chitarra, sì, che non toglie importanza alla voce, che comunque durante il brano è importantissima, ma va a chiudere il disco in maniera, secondo me, molto positiva, e per quello che l'abbiamo scelto come ultimo brano di chiusura del disco, insomma, per dare una forza vocale a lei e anche musicalmente per lasciare un bel ricordo negli ascoltatori, insomma. Che difficoltà hai avuto a interpretare un pezzo così, così corposo, così difficile anche da leggere vocalmente? Beh, sì, è stato difficile anche vocalmente, difficile. Ci ricordiamo vagamente, no, di questa Londra, sì, perché vabbè, a parte la tonalità, che comunque sono tutti brani molto alti, sì, dove sì, abbiamo spinto molto. Poi, vabbè, per quanto mi riguarda, sai, io di vocale, poi c'è cioè l'interpretazione, vabbè, quello ho dovuto mettere qualcosa in tutti i brani, e non è facile perché comunque sono un interprete che ha fatto sempre cover, quindi è stato un lavoro altrettanto difficile, certo, certo, fare una canzone assolutamente mia, inedita, sì, chiaramente. Quindi, vabbè, no, era affascinata da quello che diceva Marco, perché sì, poteva continuare, lo dici. Sì, no, perché veramente la prima si è volta che subito, si è bloccato subito. Anch'io è la prima volta che ascolto queste cose, perché quando magari c'è qualche intervista, appunto, non posso averli sempre con me stasera, quindi. Ma è importante, secondo me, perché Marco ha dato la chiave di lettura giusta del pezzo, sì, perché sì, secondo si è capito al di là del pezzo stesso come è nato, come si sviluppa. Infatti, quindi ti useremo ancora, Marco, grazie mille. Com'è, Marco, già che stiamo parlando di te, com'è lavorare con Cassandra? Vogliamo scoprire qualche dato, qualche segreto? È, beh, così tormentosa la ragazza? No, a livello professionale è instancabile, è una staccanovista. Ha fatto anche delle sessioni di 8-9 ore continue in studio senza aria, ti ricordi, nel triangolo della morte, esatto, che stava svenendo. L'unico problema è che ogni tanto si appunto sviene o ragazzi basta, sto morendo, però per il resto è una bella soddisfazione lavorare con lei, assolutamente, anche perché è molto recettiva, quindi anche in fase di registrazione, non solo di preproduzione, basta dirle qualcosa attraverso il vetro e interpreta in maniera perfetta. Ma le studiate insieme le canzoni, così da proporre, cioè musicalmente e anche con le parole? Sì. Beh, sì, sì, anche perché io sono arrivata a Londra sempre passando lì per caso, e quindi mi hanno trovata il primo giorno che praticamente non sapevo neanche cosa stavo cantando, perché io avevo detto a loro sì ho studiato, vi giuro che ho studiato. Solo che per me studiare, appunto, essendo un interprete sempre di cover, era veramente superficiale, quindi ci siamo trovati tipo la notte che facevamo tardissimo a scrivere il significato di ogni testo che andavamo a fare il giorno dopo in studio, ed è veramente, cioè, abbiamo passato delle ore pesanti, e poi la mattina infatti eravamo un po' però, anche stanchini. Però avevi quell'euforia. Vabbè, delle cose, sì, certo. E poi loro avevano tanta, cioè, tanta voglia di spiegarmi anche tutte queste cose. Certo. Quindi... Vabbè, perché credono in te, quindi insomma era giusto che ti spiegassero. Sì, no, anche perché avevamo 5 giorni. Ah, quello è il tempo. Dovevo essere recettiva. Assolutamente. Questo è il locale dove avete registrato, mi diceva Alessandro. Sì, sì, sì, The Premise Studios. E questo coniglio è quello che piace a te? O è questo perché... è il mio coniglietto. Ah, ecco, ecco. Ma una particolarità questo studio, vero? Sì, è tutto energia. Esattamente. Sì, solare, quindi energia solare, molto importante. Sì, sì, molto. All'avanguardia. Volevo spezzare una lancia a favore di quella foto che ha fatto vedere prima. Questo studio è in una via Hackney Road, sì, di Londra, che è chiamata la via degli artisti. Ah, perfetto. Infatti questo è uno dei vari affreschi che si trovano, è per quello che l'abbiamo scelto, perché proprio io credo che di Londra, oltre ovviamente gli Abbey Road, certo, sia forse la zona più artistica che c'è. Che è vicino a Londra, non te lo ricordi? Che... No, non lo so. No, sapevamo solamente fare dall'albergo fino allo studio. Perfetto. Massimo al supermercato siamo andati. Londra è bellissima comunque. Molto, molto ed è bella. Molto musicale anche, sì, oltretutto. Allora, siamo rompiamo, pronti? Rompiamo siamo il ghiaccio? Sì. Ti senti pronta? Rompiamo. Sì, sì. Cosa ci proponi? Allora, guarda, io propongo un brano che non è del disco Semplicemente Sole, però lo sto proponendo perché appunto è stato un brano che ha fatto parte del mio primo EP. Si chiama Dischi e Poesie ed è stato scritto da Massimiliano Varrese, che tra l'altro è un attore. E, che salutiamo. Sì, lo salutiamo. E, vabbè, anche questo come tema all'amore. L'amore che è sempre quello finito, perché Cassandra si vede che non ha molta fortuna in amore, quindi si presta molto a questi testi. Quindi niente, buon ascolto, e questo è il Dischi e Poesie. Ok. E riprovato, io non ho più parole nuove, io che ci può guarire, esorcizzare. È troppo tardi ormai, non mi freghi più coi musi tuoi, falli alla mia amica a cui ti dai. Ora che ho capito di che basta sai, e porta via il tuo sedere fuori da qui. Ma quale amore, abbi un po' il pudore, via da qui. Ascolterò dischi e poesie, esalterò le mie manie, camminerò da sola per i giorni giusti e quelli no. Inventerò storie tutte mie, sfogherò le mie fantasie e morderò la vita, mi leccherò le dita e riderò. E mai avrei pensato a questa fine, mai in tutte quelle nostre notti, mai mentre mi stringevi, mi accarezzavi. E cosa siamo ormai? Forse è naturale sia così. Pensavo fossimo invincibili. E fa male dirti che finisce qui. E spero tu possa incontrare amore. È così grande da e forse capirai che hai fatto a me. Ascolterò dischi e poesie, esalterò le mie manie, camminerò da sola per i giorni giusti e quelli no. E inventerò storie tutte mie, sfogherò le voce, come certamente, sempre, come sempre. Noi... bravissima Cassandra. Grazie. Musicalmente è iniziato con un dondolare quasi folk, poi lentamente poi il pezzo si è evoluto, si è ampliato, sei quasi arrivato a tonalità blues, secondo me, leggermente blues. Si sente che tu hai fatto, che cantavi cover, si sente l'impostazione è quella. Ah. Ed è positiva, secondo me, e hai leggermente virato verso il blues, secondo me, e poi sei ritornata nel pop. Un pezzo bene, che ha diverse chiavi di lettura, a mio parere. Sì, non sì, so se sei d'accordo anche te, Marco. Sì, sono d'accordo. Questo vorrei precisare, questo è un brano su cui noi della Mia Music non siamo intervenuti, quindi sinceramente lo conosco per quanto riguarda la carriera di Cassandra, ma non ne ho mai apprezzati le doti artistiche e musicali. È un brano pianistico, quindi chitarristicamente difficile da rendere, però è un brano molto molto armonico. Poi molto è forte anche musicalmente, cioè dal punto di vista vocale hai cominciato piano, ma poi hai sviluppato notevolmente, poi sei uscita. Per dare un'impostazione, la forza del infatti, testo. Sì, nell'EP precedente appunto io uscivo piano piano, quindi era tutto un crescendo. Invece in Semplicemente Sole è un exploit fino all'inizio, dall'inizio alla fine, chiaramente. Sì, sì, infatti. Infatti anche nei live comunque ci vuole la bomboletta d'ossigeno accanto perché insomma... Lo fa anche Mick Jagger, che te dice, esatto. Però si vede che ti piace cantare, sai? Quando canti hai sempre quel viso solare, come dicevi prima. Sì, si poi vede che... sai, anche se sono in radio, mi viene un po' da fare qualche faccetta mia. Oppure tu falla, che tanto ti vediamo. Poi casomai lo commentiamo. Va bene, ok, allora mi sentirò libera. Sì, fai quello che vuoi, ci mancherebbe altro. Senti, io volevo chiederti una cosa, Cassandra. Se ti va di parlarne, ovviamente, tornando indietro al discorso che dicevi poc'anzi, discorso di amici, ma quello che noi, cerca di capire, quello che noi vediamo dalla televisione e quello che veramente vivete voi dentro, cioè quello che trasmettete, è questa o è solo apparenza? Purtroppo sì. Sì, quello che vedete è assolutamente tutto vero. Non avrei nessun motivo appunto di dire il contrario, anche perché non sono stata pagata per dirlo, quindi forse. Però è una trasmissione vera. E a volte dico appunto, forse era meglio se erano finte certe cose, perché alcune litigate sono veramente assurde. Vabbè, c'è tanto stress, poi siamo ragazzi giovani, abbiamo tante idee appunto diverse l'una dall'altra, quindi è facile scontrarsi, si scontrano infatti, però ecco, a parte chi magari appunto i piedi in testa li voleva mettere, però io ero tranquilla, cioè per alcune cose, poi è normale che anche io per altre mi arrabbiavo, però non mi sono mai arrabbiata chissà quanto, forse l'ultima settimana però sì, non mi ne sentivo potevi proprio più, dopo uscire ho detto vabbè due cose me le dico pure io. Ho capito, quello era il motivo. A proposito, ritornando un momento in live, tu hai suonato a Boston. Sì, ho... che esperienza è stata suonare a Boston, negli Stati Uniti? Sì, ho Massachusetts, come si dice? Ho cantato, ti sei esibita là. Mi sono esibita. E, tra l'altro in una performance molto molto importante, molto responsabile, perché appunto dovevo cantare l'inno americano. Che non è mica una cosa semplice, giustamente. Infatti, tra l'altro sono stata anche premiata, perché sono stata l'unica che è andata a tempo, stranamente, di solito io sgarro. È l'unica che non ha interpretato l'inno, perché l'inno non è una canzone da interpretare, ma è l'inno del paese, quindi non puoi farlo tuo. Certo. Poi vabbè, quando si tratta di Whitney Houston, ok, cioè nel senso mi sono ispirata a quello, ma non sono mai riuscita a farlo così. Comunque è stata una bellissima esperienza, mi hanno premiata e mi hanno fatto cantare anche la seconda sera, che di solito non lo fanno mai. Cioè, proprio impossibile. Vuol dire che hai colto nel segno. Sì, va bene, poi mi hanno anche premiata perché ero comunque italiana, con cittadinanza americana, e quindi hai visto. Ok, benissimo. Io ricordo sempre i nostri numeri di SMS, insomma, se volete mandare qualche informazione, chiedere qualche informazione ovviamente a Cassandra De Rosa, vi ricordo il 346 23 20 033, oppure se vi è più comodo e anche più conveniente soprattutto, potete scrivere tranquillamente sulle nostre pagine di Facebook, anche su quelle di Cassandra, su quella mia, insomma, in qualche modo le leggiamo, le vediamo, le leggiamo, e quindi Cassandra poi vi risponderà, insomma, se avete qualche... qualcosa da chiedere. Come sono i tuoi fans? Proposito, so bravi, che ne hai tantissimi. Sono... Sì, loro. C'hai anche un fans club ufficiale? Sì, sì, sì. Guarda, sono tanti, nonostante appunto siano cioè, per essere passati 5 anni, sono tanti. Sì. Alcuni sono fan all'inizio per circostanza, però va anche capito, insomma, non è che poi a lungo andare spariscono. Sì, vabbè, alcuni sì, sono spariti, però altri sono rimasti e sono anche molti, e sono state anche. Hanno, diciamo, hanno stretto i denti insieme a me, perché cioè, insomma, per 5 anni aspettando semplicemente Sole ne abbiamo passate, quindi insomma non è stato facile neanche per loro, anche perché sai, poi magari gli dicono ma chi segui, ma chi è, ma non ha fatto niente, e loro no, vedrai, lo farà un giorno, quindi ci credevano ancora. Sì, sì, infatti mi hanno sempre dato la forza, poi ho fatto tantissimi raduni, io veramente me li sono coltivati come delle piantine. Io sempre in Toscana, comunque. No, anche, no. Anche fuori. Sì, sì, ho fatto raduni ovunque, anche a Venezia, ho fatto raduni, Milano, infatti Cagliari, Napoli, tutte le città. E, è stato bello perché ho conosciuto appunto tutti questi sostenitori che insomma mi seguivano nella trasmissione. È il tuo tesoro, insomma, il tuo patrimonio, questo. Molto da coltivare, sì. Assolutamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, ma lo coltivo proprio non perché è solo un patrimonio, ma perché io l'ho fatto fin dall'inizio, quindi non avevo, in realtà non avevo nessun interesse se, insomma, se avessi voluto anche non coltivarli. Invece è stata proprio una cosa mia e anche di mio padre, perché lui seguiva loro su internet e quindi insomma li ha fatti attendere e io poi li ho conosciuti. Bene, bene. Ritornando all'eclettismo, perché mi interessa questo qua, cioè, questo disco è un disco eclettico. Quando hai parlato con Marco, il discorso dell'idea del disco eclettico, come è nata, come si è sviluppata, l'idea delle facce da porre, da far sentire? Sto parlando con te. Vabbè, no, voglio essere molto chiara, appunto. No, vabbè, in realtà Marco ne dobbiamo ancora parlare, però vabbè, io ho chiesto, ecco, a loro di, che volevo far vedere un po' tutte le facce della medaglia, della volevo medaglia, far vivere agli ascoltatori la tua crescita musicale, la mia crescita musicale, ma anche le mie esperienze in testi, appunto, certo, che troviamo anche qui nel disco. Poi per quanto riguarda gli arrangiamenti, sì, certo, non volevo fare un disco troppo monotono, troppo commerciale, troppo noi siamo andati anche a rischiare, perché non è proprio commerciale, non è proprio da radiofonico il nostro disco, quindi anche Ma Ora No, che è il singolo, insomma, poveraccio, è dovuto stato tagliato, ricucito. Sì, è stato ricucito praticamente, sì, sì, perché quindi l'idea originale non era così del singolo. No, cioè nel senso era molto più lunga la versione, però è normale, bisogna fare bisogna fare una versione da singolo, sì, praticamente. Sì, certo. E beh, quindi tutto così è andato, però è andata bene, assolutamente bene. Cioè io sono contenta, non volevo fare una cosa che dovevano fare anche altre persone, volevo fare una cosa mia. E poi appunto anche Londra è stata quella, no? Perché dovessimo dare importanza o dovessimo fare le persone che andavano a Londra per registrare, ma semplicemente perché volevamo dare un tocco perché Londra diverso. Si sposava Beh, certo, a parte si sposava col progetto, certo, con le idee d'arrangiamento di Marco e anche i testi infatti delle canzoni. Infatti a Londra l'hanno apprezzato, qui magari ci sono state anche persone che hanno detto ma non si sente, si sente poco la voce, no, in realtà si sente la Cassandra, che forse qualcuno si aspettava, in realtà si sente l'amalgamarsi, che forse dà fastidio all'orecchio degli italiani, perché appunto non siamo abituati a sentire l'amalgama, ma siamo abituati più a sentire la voce. Certo. Quindi tutto qua. Okay. Cassandra, c'hai già un messaggio? Sì. Dice, primo messaggio, ci tiene a precisare, salutone a Cassi, un grazie a voi per questo live e un saluto anche a Marco ed Alessandro per aver messo su questo CD con una firma importante come Saverio Grandi. Un bacio da Angela di Caserta. Ah, grazie Angela. È una tua fan? Sì. Io poi li conosco tutti. Personalmente anche, sì? Sì, quasi tutti, sì. Manca qualcuno in Calabria e al nord, forse. Sì. Che bello. Sì, perché ho fatto tanti raduni, quindi io ho avuto il piacere veramente di conoscerli tutti. La semplicità sta in te, insomma. Sì, ok. È bello così, credimi, sai, quando si è semplici si fa strada, c'è niente da fare, insomma. Io la penso così, e se no altrimenti poi uno si crede essere chissà chi, invece poi cade la maschera e si va da poche parti. Bravissimo. Sì. Adesso però dov'è che andiamo? Adesso? vediamo. Vediamo. Canto. Sì, cosa canto, ci canti? Canto, vediamo un po'. Te lo dico io cosa canto. Facciamo. Marco, vuoi dirmi? Vogliamo fare Tu sarai? E qui abbiamo scelto come pezzo trainante questo qua. L'abbiamo messo su noi della sì, radio. Ecco, infatti. A me è piaciuto molto perché è una pop ballad, una ballata pop. Poi con l'inizio di chitarra acustica dà un certo sostegno, è bello. Costruisce un castelletto giusto per poi tu entri con la voce e via. E le cose vanno semplicemente perché è un pezzo accattivante che entra dentro in me. Bene, sono contenta perché infatti poi dopo il tuo giudizio è diverso per esempio da altre persone di altre radio. Così, l'ho sentito appunto, così. Appunto, cioè tipo che preferiscono altre canzoni e Tu sarai la prima volta, sì. Mi sono puntato su quella. Bello, non ho scelto il singolo. È una canzone appunto che mi appartiene anche come tutte le altre. Chiaramente sì. Parla sempre di questa donna che si vuole liberare di quest'uomo. Come si deve fare? Però anche musicalmente mi ha preso immediatamente. L'abbiamo scelto come pezzo trainante dell'album. Anche, non è il singolo, però questo non vuol dire assolutamente no, niente. Infatti. Può essere il singolo nostro qua dentro. Va benissimo. Cantala con passione perché c'è un messaggio splendido. Ok. Volevo rimanere sola, sola però dentro di me quanto mi sentivo nuda a vivere libera di essere spenta e di stare male da speciale mi sento banale libera da poesie, da tutte le fantasie, libera di andare via, ma non libera da te. Sarai del mio corpo il mio viaggio, sarai nel deserto miraggio, sarai so che non sai stare solo con te e per te non c'è nessuna strada, tu sei dentro di me libero di essere pazzo e di promettere tanti fiori, quadri e cuori. Libero di insistere e di giocare più che puoi. Stai lì che io salgo su, mi libero da te. Sarai nel mio corpo il mio viaggio, sarai nel deserto miraggio, sarai come il vento che soffia una foglia nel cielo, ogni giorno mi soddisferà, sarò sospesa e sorpresa di più da me, ogni giorno mi regalerà amore e ancora sarai nel deserto miraggio, sarai come il vento che soffia, sarai La consueta ultima nota, gliel'abbiamo lasciata. Sì, bravissima. È stata bravissima, perché una cosa da sottolineare in questo pezzo, tanto l'arrangiamento scheletrico da parte di Marco, volutamente scheletrico, e poi tu crescevi, cioè, i nostri ascoltatori non hanno potuto vedere, ma gesticolavi, il gesticolare dava quella forza al pezzo, gesticolavi come fossi sul palco e continuavi a gestricolare, perché ti davi forza gesticolando. Sì, perché tu devi sapere, appunto, loro non vedono, però siccome sono anche seduta, è come se mi facessi tipo le scale con le mani e salissi, cioè con l'immaginazione, perché comunque seduta, schiaccio il diaframma, è proprio posizione, cioè... non canto. Poi io poi non è che, appunto, non avendo studiato, cioè tutte le regole me le sono create, è tutto certo. Naturale quello che faccio, quindi è ancora più difficile, a volte mi trovo in queste situazioni e quindi mi aiuto così. Cioè, questo pezzo, che nel disco era tendenzialmente pop, non pop energico, qua l'hai proprio trasformato in un pop energico, molto molto sofferto, molto vissuto e molto cantato, possiamo dire gridato nel senso positivo del termine. Sì. Io l'ho sentito così in questo momento, 21:44, tutto in diretta, assolutamente. Allora, Cassandra, io ti devo rubare un po' di tempo, perché qui si stanno scatenando. Ma benissimo. Sì. Allora, intanto salutiamo due amici di questa emittente, due cantanti che sono passati per questa radio, che hanno fatto il loro live, dove sei seduta tu, c'erano anche loro. Uno è un cantante di Genova, si chiama Antonio Clemente, dice che bello sto pezzo, è inerente alla canzone che abbiamo detto, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Grazie, sì. Antonio. E l'altra è Giulia Daici, che è un'altra cantante che è venuta qui e ti fa i complimenti e dice anche lei che è una bellissima canzone, che bello sto pezzo. Grazie, bene, sono contenta. E allora teniamoci in contatto su Facebook. Giulia, hai capito? Giulia, Antonio, sì, assolutamente. E poi passiamo agli SMS, che sono già... Cioè, questo che ti dicevo te lo leggo subito, perché è veramente molto bello. Dice: la parola artista è molto usata al giorno d'oggi, anche sfruttata, perdendo così di significato. Io non ho paura a dire che Cassandra sia un artista, ne ho l'assoluta certezza. Un artista è umile, sensibile, talentuoso e ha sempre voglia di mettersi in gioco. Ecco, Cassandra è tutto questo, e non c'è giorno che non ringrazi il cielo per averla fatta diventare parte indispensabile della mia vita. Con affetto, Giuseppe. Oh, io non ho parole. Giuseppe, penso sia... Non lo so, io non so chi Giuseppe sia. Giuseppe Barone. Della Sicilia, trasferito a Roma per studi. sì, io li conosco tutti, so le dovrebbe essere lui. Beh, lo ringrazio tantissimo e vabbè, la stessa cosa è per me. Quello, certo. Loro per me sono veramente, veramente importanti, e quando sono io entusiasta lo sono anche loro, quindi... è una grande responsabilità. Ma quanto è brava Cassandra, talento e umiltà, grande artista e bella persona. Un bacione a tutti voi da Claudia da Napoli. Grazie Claudia, grazie mille. Sì, conosco anche Claudia. Claudia dovrebbe essere... Claudia, se non mi sbaglio, Liguori dovrebbe essere. Lei? Non lo so. Vabbè, comunque, no, stavamo commentando con Alessandro, perché continuano ad arrivare messaggi qua. Bene. Comunque, sì, la ringrazio. E niente, appunto, dicevo, una grande responsabilità, però una responsabilità anche per loro, perché tante volte quando io mi perdo d'animo sono loro a dovermi tirare su, e l'hanno fatto tantissime volte. È strana questa cosa, però, appunto, è nata proprio questa amicizia, e poi c'è tanta, tanta complicità. Ci capiamo con uno sguardo ormai dopo 5 anni. Questa invece dice, questo è un po' me la faccio mia, sì. Grazie per aver invitato Cassandra, 5 anni fa l'ho sentita cantare per la prima volta e continuerò a seguirla ancora per tanto tanto tempo, ha una voce fantastica ed è una ragazza speciale, un saluto a tutti, Emilia sì, l'ho conosciuta 5 anni fa, Emilia la conoscono anche Alessandro e Marco, una mamma di due bellissimi bambini e anche un'altrettanto moglie. Quindi, è la signora che mi ha aperto il blog proprio 5 anni fa, quando io entrai ad Amici, e io ero scioccata, perché ho detto: no, vabbè, cioè, questa signora con sua figlia ha aperto un blog per me. Io ho detto: ma cosa avrò mai trasmesso? Cioè, non capivo, perché comunque sei sbalzata in questo mondo all'improvviso e non... non capisci come sia possibile, qualcuno segue te, vota te, cioè non, vabbè. Comunque, niente, le voglio un gran bene a Emilia, come voglio bene appunto a tutti loro che mi sostengono, e la ringrazio veramente tanto. Poi c'è un altro cantante che è passato questa emittente, si chiama Luca Penna, fa un saluto a te ma anche a Marco, e dice: posso approfittare per fare un saluto a Cassandra e sì, al maestro Marco Gabrielli, gran bel disco. Grazie Luca. Ti conosce Marco. Grazie Luca, ciao. Luca, anche con te teniamoci in contatto. Sì, va bene, è già passato qui comunque, sì, anche sì. Lui. Perfetto, poi sì, glielo passo a Marco. C'è una domanda per te. Ciao, volevo chiedere a Cassandra quando ci sarà il prossimo video, ci teniamo troppo a rivederti nei canali musicali. Pace. C'è mia music stasera, io non parlo. Marco, novità? No. No, ma queste sono cose, questo del video è più da Paiaro, che appunto si nasconde. Sì, si nasconde dietro. Marco alla fine è qui, lui si sta mettendo in gioco. Ne leggiamo ancora uno, poi cantiamo e suoniamo ancora, e sì, poi leggeremo anche gli altri perché sono tantissimi. Dice: un saluto a Cassandra e a voi di Blu Radio Veneto per averla ospitata. Cassi, tu sarai l'unica che come sempre mi dà la forza per andare avanti in periodi come questo. Grazie di cuore, bacione, Nunu. Nunu, Nunzia. Sì, vabbè, anche loro appunto, ripeto, mi danno forza in tanti altri momenti, e niente, le mando un bacio, un abbraccio forte. Ormai adesso, è tanto tempo che non ci vediamo. Per tutti questi fan, se ci fai un'altra canzone dal vivo, vuoi riposarti un po'? Sì, no, possiamo fare. Marco? Marco è subito pronto. Marco? Cosa Marco, ci fate? Cosa facciamo? Vabbè, facciamo... Però Alessandro Paiaro almeno da dietro al vetro. Ma potrebbe partecipare anche lui. Potrebbe partecipare anche lui in qualche momento. Io posso esprimere una preferenza su quella, sì, che vorrei sentire? Sì. Io vorrei sentire Maura No, che è una vita che non la sento. Ah, va bene, ok. Ok. Questo... Maura però. Maura, sì. Sì, ora. Allora ci fai ascoltare quella? Sì, vabbè, il brano d'apertura del disco, il singolo. E, vabbè, parla sempre, sì, di una donna. Posso parlare, no? Certo. Vado avanti. Parla di una donna che ha fiducia nel futuro, che ama e coltiva questo suo amore, sperando che nei momenti difficili quest'uomo che lei, di cui lei è tanto innamorata, insomma, le possa stare sempre vicino. Okay. Vicina. Una voce d'ora dal tuo silenzio. Il tuo sguardo mi uccide e parla con il mio. Chiedevo verso il cielo solo un cuore, e che mi portasse lontano, lontano da qui, dispersa in una giungla. Avevo imparato a non credere più, ma ora no, e mi fai provare un sentimento, mi fai desiderarti dentro, mi fai che ho voglia di conoscere il tuo mondo. Se questo fosse tutto vero, allora forse è possibile un po' di tranquillità. persa in mezzo al mare. Avevo imparato a non credere più, ma ora no, e mi fai provare un sentimento, mi fai desiderarti dentro, mi fai che ho voglia di conoscere il tuo mondo. Tirato fuori tutta la sua grinta, si è scatenata. Sì. Peccato non ti possono vedere. Sono buffa. No, sei divertentissima, sei bravissima e bellissima, insomma. Grazie. Da vedere. Io continuo con la lettura. Salve Blu Radio Veneto, volevo ringraziarvi per aver invitato Cassandra e volevamo farle sapere che non vediamo l'ora di ascoltarla in un live. Un abbraccio da Ele e Anto, due delle piantine di Napoli. Sì, sì, me le ricordo. Elena e Antonella. Allora, guarda, per quanto riguarda i live, quest'anno, come si dice a Firenze, le crisi. Cioè, nel senso, diciamo un po' in tutti i campi le crisi. Quindi stiamo attendendo, però, insomma, le richieste ci sono. E poi per confermare che è un po' più difficile. Però comunque la speranza è l'ultima a morire. Sicuramente non faremo 55 date, però speriamo almeno di farne un po' per... magari ti vediamo che qui a Padova. Ma magari... Sì. Non si sa, ma mai dire mai. Organizziamo qualcosa. Sarebbe bello, bellissimo sarebbe. Andiamo avanti. Giulia dice comunque molto bella questa sua versione acustica. Io la conoscevo solo con versione da disco, ma bellissima in acustica. È una cantante, quindi. Bene, grazie. Allora, questo dice: bella sei, e chi ti lascia più? Dopo 4 anni di bei momenti, tante soddisfazioni, ma anche attese. Siamo sempre rimasti insieme e un giorno è arrivata questa opportunità. Questo nuovo CD. Ricordo come fosse oggi la trepidazione nel sentire la prima volta le canzoni. Grazie a Alessandro e a Marco per aver creduto in lei come tutti noi. Chia da Firenze. Chia sarà. Guarda, grazie mille anche per questo messaggio. E sì, ricordo l'emozione come se fosse adesso. Proprio io ero già emozionata, tornata da Londra, già volevo il disco, pronto, sì, facevo sempre, allora, pronto, tutto a posto, pronto, tutto, no, ancora no, usciamo a settembre, no, come a settembre, no, è troppo lontano, quindi, comunque avevo i provini e ogni tanto qualche ascoltatina la facevo fare da qualche parte. Adesso lo posso dire perché tanto ormai CD è già uscito, ormai mi hanno già fatto il contratto Alessandro e Marco, non lo tolgono più. Buonasera a tutti, ciao Cassi, quando vieni in Calabria mi manchi, voglio ascoltare la tua voce, sei la migliore, ti voglio un mondo di bene. Rosa, sì, infatti parlavo proprio anche di lei prima in Calabria. che appunto mi piacerebbe andarci, perché tra l'altro in Calabria è stata una delle regioni che proprio non ho toccato neanche dopo Amici, se non in qualche festa privata, quindi mi piacerebbe fare qualche live. 13 giugno 2008, Signe, Firenze, 500 km solo per sentirti cantare. E mai avrei immaginato che oggi quella ragazza sarebbe entrata così tanto a far parte della mia vita. Aspetta che devo girare il messaggio perché è lungo. Ah no, forse è finito lì. Vediamo se è arrivato tutto. No, è finito lì. Si è drogato, è troncato. È troncato il messaggio. Sì, c'era talmente tanta emozione. Ne leggiamo un'altra allora. Prima tu sarai, ora ma ora no, tu mi fai emozionare. Sai cosa ho tutto fatto per vederti e stare nei tuoi concerti? Io vorrei che tu non ci lasciassi mai e sparissi noi. Noi viviamo di te. Sto leggendo da malissimo questo messaggio. Un cassandrino sardo, Christian. A presto. Christian, sì, lo conosciamo, Christian. E, vabbè, un bacione innanzitutto e spero di vederli presto. Stiamo trattando con la Sardegna tramite un'agenzia. Tutta Italia, insomma. Sì. dobbiamo assolutamente. Ciao Cassi, sono Christian, ho saputo che tornerai, speriamo presto, mi manchi tanto. Ok, sì, è vero, ci sono appunto queste notizie da Sardegna, che sembra che debba tornare Cassandra in Sardegna, un evento incredibile, lo scriveranno anche sull'Unione Sarda. Beh, perché no? Sì, infatti. Ciao a tutti e grazie per aver invitato Cassie, una persona, un'artista splendida, a cui posso solo dire grazie di tutto e che sarò sempre con lei, Debbie. Grazie, Debbie. Bene, ci siamo viste anche a Cesena proprio l'altra sera. Bene. Allora, intanto ne approfitto per ricordare gli sms, quindi... Le conosco tutte, mi fanno le facce, le dovresti vedere, cioè, queste facce, veramente, perché... Cioè, io veramente li conosco tutte, è incredibile. Ma poi, cioè, non lo so, vabbè. Vabbè, bello così, io comunque, proprio, ti faccio onore questa cosa. Sì, ma perché tutte le mail, le cose, perché io stavo lì e rispondevo, cioè, io mi sono anche lasciata in passato per queste cose, in amore, cioè, certo. Ma perché stai sempre su internet, vabbè. Tanto si è visto, no, chi è rimasto. Poi. Certo, esatto. Io ho sempre ragione. Allora, dicevo gli sms, se volete mandarci qualche domanda, anche perché no, Cassandra De Rosa, 346 23 20 033. Se invece volete telefonarci in studio, vi ricordo lo 049 875 56423. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore e assieme al mio fedele compagno, come dico sempre io, cioè Maurizio Calzavara, vi stiamo regalando, ormai l'abbiamo capito, vi stiamo regalando un'ora e mezza di emozione con Cassandra De Rosa e con Marco alla chitarra, che sta accompagnando questa sua musica, questo suo disco, questo suo, in acustico, cioè Semplicemente Sole. Cassandra, ricordiamo i musicisti che hanno suonato in questo disco, oltre a Marco che è qui presente. Sì, allora... Perché mai, ma ora no, è un pezzo molto importante, sì. Anche dal punto di vista musicale, molto sostenuto. Sì, c'è la batteria... c'è la batteria, c'è il basso... Di Simone Coppiello, è molto giovane Simone, ma ha le carte in regola, Marco è molto affezionato a lui fin dall'inizio, infatti certo. Ha creduto molto in questo lavoro, anche dal punto di vista... della batteria che avrebbe dato sicuramente molta importanza anche a questo brano e poi abbiamo Alessandro Pagliaro al basso, sì, che è sempre nascosto, è sempre nascosto, sì, che non vuole parlare, tanto esce per suonare il basso e poi c'è Marco Gabrielli appunto alla chitarra e poi alle tastiere diciamo che alle tastiere nella band abbiamo un'altra persona che è Moreno Moreno, però nel disco ha lavorato Zeno Mantovani è un musicista anche che suona con loro regolarmente perché Alessandro e Marco suonano anche in una cover band. Perfetto. Io li pubblicizzo. Io volevo sottolineare una cosa: il discorso, il tocco di elettronica che hai messo in questo pezzo, che è stata l'idea, è stata tua? Di dare un certo tocco di elettronica. Posso dire sì. È un pezzo interessante, un'idea interessante, perché dà una colorazione particolare. Anche il pezzo singolo doveva trascinare la voce di Cassandra, però dava quel tocco elettronico. Sì, è una via di mezzo tra l'elettronico e il pop, infatti, un elettropop, chiaramente. Con un po' di rock. Con un po' di dato rock. Dato da Cassandra, ovviamente. Cassandra ha il DNA rock, praticamente. Ce l'ha il DNA rock. Stavo dicendo appunto che sto cercando appunto la mia identità, anche se penso di essere molto versatile, quindi di non capire neanche io bene proprio per questo qual è lo stile che veramente mi appartiene. Quindi infatti anche adesso vorrei fare una ricerca ancora più approfondita e vedere magari, che ne so, proprio soul, perché no? Non sarebbe male, da rock al soul comunque. Beh, si può passare, si può passare. Sì, vabbè, perché si può passare pure, certo. Lì, non è un problema. Ho recuperato il messaggio. Sì. Allora, 13 giugno 2008, Signe, Firenze, 500 km solo per sentirti cantare, e mai avrei immaginato che oggi quella ragazza sarebbe entrata così tanto a far parte della mia vita e mi avrebbe fatto conoscere gente fantastica. Angela. Angela. Angela. Bene, allora ringrazio e sì, Signa, me lo ricordo, è stato un raduno che ho fatto praticamente in un paese vicino alla mia città, Firenze, perché io sono fiorentina, oltre che per metà americana, ho questa cittadinanza così regalata, ma che anzi è una fortuna enorme, infatti grazie a mamma mia. E niente, ecco, è stato un bellissimo, uno dei primi raduni che ho fatto e c'era il mondo, lo posso dire, c'era il mondo, ero emozionata perché figurati, io ho detto sì, vabbè, adesso vado lì, arriveranno due persone col cane, quindi fanno quattro. Non è stato così. E non è stato così, anzi, infatti è da lì che ho scoperto quanto ero apprezzata fuori e quanto bene mi volevano, perché insomma poi ho passato una giornata bellissima fino alla sera. Martina è una tua fans ancora dai tempi di Amici, dice ciao Ago, ti sto ascoltando, ricordo Cassandra quando era da Amici, ha una bella voce. Grazie mille Martina. E poi c'è una domanda per te, dice, una domanda potrebbe essere: qual è stato il giorno più emozionante lavorativamente parlando? Non si è firmato il giorno oddio, forse è stato l'ultimo giorno della registrazione a Londra, l'ultimo giorno, perché sapevi che dovevi andartene via, sì. Era per quello, è stato tragico, la nostalgia. Beh, sì, magari sì. Tornerai. No, ma anche perché avevamo praticamente la nostra colonna sonora che era semplicemente il sole, che dopo vi faremo ascoltare, che la riascoltavamo, avevamo messo, come si dice, loop, sì, continuamente. Sì, sì, e quindi non facevamo altro che ascoltare e dire oddio, bellissimo, oddio stiamo andando via, oddio finirà tutto. E sì, era molto tragica la situazione, ma anche loro due, molto fragili, molto sensibili. Sembrano in quel chissà chi, ma poi invece sì, sono sì, sensibili. Fanno i signoroni, invece, cedono. Sì, sì. Senti, questi due signori ci hanno dedicato una canzone, giusto? A Padova. Purtroppo per una cosa brutta, cioè il Bronx. Ah, Bronx, ok. La vogliamo ascoltare così ti riposi un pochino? Sì, sì, ok. Allora, si chiama proprio così, è una canzone che è stata dedicata, scritta apposta per il Bronx, e mi diceva Alessandro prima. Sì, sì, sì, è la puntata della criminalità. E... di Anelli, insomma. Sì, sì. L'ascoltiamo. Parapoli che ore Radio Sera. Blu Radio Sera. E come dico sempre io, Cassandra, quando si sta bene insieme, con la bella musica, con le belle persone, il tempo scorre velocissimo. Sì, infatti. Hai visto? Mancano una ventina di minuti, poi ci salutiamo. Oi. Velocemente, per dare una chiave di lettura di questo pezzo, è molto interessante, una fase, un inizio rumorista, poi hai detto una cosa giusta, Marco, ai telefoni spenti. Perché hai messo questo rumore, queste chitarre un po' particolari, questo assieme di suoni molto al di là della normalità? Sì, poiché con Cassandra abbiamo scritto questo testo che parlava appunto delle problematiche cittadine, quindi il titolo Bronx va appunto a spiegare questa cosa. L'idea mia era quella di creare un ostinato chitarristico che può anche sembrare esagerato, ma che rendesse l'idea delle ambulanze che passano esatto, nel Bronx. Per non prendere il classico campione di ambulanza che non si fa più dal 90, l'ho fatto con le chitarre, insomma, è tutto qua. Quindi bene. Era per dare questa idea di un'ambulanza continua sotto il brano. Bene, bene, è una cosa molto interessante. Brava Cassandra e bravo il chitarrista, complimenti. Io qua continuo a ricevere messaggi. Sì, dici. Allora, poi ancora. Ciao amici di Blu Radio Veneto, grazie per questa splendida intervista a Cassandra. Con la sua voce e la sua persona riesce a sorprenderci sempre. E poi dice ancora, in un modo o in un altro, grazie a lei e alla mia music. Grazie mille, grazie. Non si è filmato. Poi ancora, ciao Cassie, sono Christian da Pompei, ti voglio ringraziare per tutte le emozioni che mi dai ogni giorno, grazie per avermi accompagnato nei momenti, poi ha fatto un secondo messaggio, e dice, nei momenti difficili della mia vita, una domanda, hai mai pensato di abbandonare il canto per sempre? Mai, no, tanto quando l'abbandono è per praticamente un secondo, e dopo sto male. Sì, perché allora chiunque ha la crisi, no? Che dice basta, smetto di fare tutto, non faccio più niente, vado a lavorare, smetto anche di cantare. In realtà a lavorare ci potrei andare tranquillamente e continuare a cantare. Quindi no, non lascerò mai la musica. La musica è l'unica cosa che non tradisce, è l'unica cosa che veramente non ti giudica, ed è l'unica cosa che ti conosce. L'unica, per me è quasi una persona, cioè. Solo lei sa come sono e mi sa descrivere. Infatti ultimamente mi verrebbe voglia, come ho chiesto anche a una persona che ho conosciuto in questi giorni, di diventare una colonna sonora. Quindi vorrei capire come mi vede la musica. Certo. E quindi... Che belle parole queste. Emozioni. Grazie per aver invitato Cassie, è una cantante eccezionale, una persona stupenda che sboccia ogni giorno di più. Ci mette i brividi ogni volta che canta e non smetteremo mai di sostenerla in questo suo percorso. Moni, Elvi, Eli, Roby. Grazie, loro sì, sono di un gruppo che sostiene anche un altro mio collega che è Francesco Mariottini, tra l'altro lo saluto. E ci sostengono anche loro ormai da 5 anni e veramente è incredibile quanto credono in noi, veramente è toccante. E poi ancora Leonora che rimanda il messaggio, dice ciao amici di Blu Radio Veneto, grazie per questa splendida intervista a Cassandra, con la sua voce e la sua persona riesce a sorprenderci sempre in un modo o in un altro, grazie a lei e alla mia music. Grazie. Baci e Leonora. Grazie mille. Adesso per tutti questi fans ci fai un'altra canzone dal vivo. Sì, sì, sì. Okay. Cosa ci fai ascoltare? Allora, faccio Opportunità. Opportunità è quella che mi è stata data anche facendo questo disco. È una ballad, dalla mia music. È uno dei brani con il significato più profondo. Quindi diciamo che insomma uno deve viversi anche oltre ai momenti belli, anche quelli brutti, perché insomma... Sì, l'ascoltiamo. Ascoltiamo e poi dopo vi dico. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Nel presente istante. Una nuova immagine, un'opportunità. Dai, non piangere ora, che tutto si colora. Hai il mondo davanti a te, mille cose da fare, disfare, emozioni che credevi ormai spente. E una nuova realtà, un'opportunità. Così dirai grazie ma, e poi grazie solo, grazie ma sarà un sollievo, un volo. Riderai di quello che hai perduto e non resterà il rancore, ma il sapore di ciò che era speciale e serve per non cancellare. Grazie. E c'è dentro a una fine un passaggio eccezionale da vivere. E c'è l'inizio di un mare che ti calmerà o ti agiterà. E non si sa. Grazie ancora, ora grazie solo, grazie ancora, finalmente in volo. Ridi già di quello che hai perduto e non c'è più il rancore, ma il sapore di ciò che era speciale e serve per non cancellare. Al cielo ora grazie solo, non credevi di spiccare il volo. Ridi forte, ridi adesso che e devi sentirti andare. Tieni aperte le tue braccia ed il tuo cuore e non stancarti del dolore. Entrare in un immenso mare è un'opportunità. Bella versione, bella versione questa. Con la chitarra sostituita dalle tastiere. Sì, molto, ecco, è un, sicuramente è anche difficile. È molto difficile perché... Sì. Cioè le tastiere davano una dimensione molto romantica, molto intimista. Infatti per me è sicuramente è molto difficile poi dover... riprendere le cose in versione assolutamente sì, acustica con sì, la chitarra. Infatti, perché appunto è intima, come hai sì. detto, quindi il pianoforte dava questo tocco di magia, di sensibilità al brano e quindi... Appunto, vabbè, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo, dai. Sicuramente. Allora, io c'ho ancora messaggi. Cassandra, sei eccezionale stasera. Allora, io non sapevo che avevi anche un team. Sì, in realtà ho tutti i team. Team delle Napoli. Regioni. Vi stiamo Napoli. Seguendo, fantastico questo live, dicono. Grazie, grazie mille. Poi ancora, Elena e Antonella Twins. Sì. Dice, grande Cassandra De Rosa, questo showcase acustico è fantastico. Grazie, grazie mille. Poi ancora... Ed è stato possibile, però va detto, insomma, grazie a voi. Perché... Beh, grazie a te della tua disponibilità sì, anche a venire. Grazie mille. Però insomma abbiamo... Noi ti abbiamo chiamato perché ci faceva piacere che tu fossi qui, insomma, io ti ho cercato... tramite Facebook, insomma, sì, sì, ti, vero. Ti ricordi. Ecco, allora, poi ancora Gaelle Alberici dice, leggete la mia mail che vi ho scritto per Cassi, per favore, quasi ci supplica, dice, Cassi è super grandiosa, showcase acustico è stra fantastico, unico e unica lei. Grazie mille Gaelle, sì, Anche Gael è molto molto presente, mi segue, poi sono sempre tutti preoccupati appena mi vedono che magari sono un po' più giù di morale oppure non mi sentono, cos'è successo? Quindi sì, è bello, è bello. Vediamo se ricordi questo. Ogni volta che c'è Cassie in trasferta o giù in città, anche se la mamma non lo sa, noi saremo sempre là. I sì. parenti e gli amici ci domandano tutti perché me ne frego, rispondendo che Cassie è tutto per me. Angela. Sì, questo, sì, sì, me lo ricordo. Praticamente all'inizio, dopo Amici, era tutto un susseguirsi di cori per me, no? Quindi se li inventavano lì per lì, no? Ma facevano canzoni proprio, invece che cori. E infatti mi ricordo questo, che faceva... ogni volta che c'è Cassie in trasferta oggi in città, anche se la mamma non lo sa, noi saremo sempre qua. I parenti e gli amici, sì, vabbè, fai un... Vedi, me la ricordo, io ascoltavo loro. Poi ancora, vogliamo non mi manchi neanche un po', oppure quando tutto era amore, ma quando tutto era amore l'abbiamo fatta... Sì, l'abbiamo mandata all'inizio. Nel podcast poi potranno risentirla. Noi pensavamo invece di appunto proporvi... non live, però comunque di farvi ascoltare Prendo Tempo, che è la canzone con la quale mi sono presentata alle selezioni del Festival di Sanremo quest'anno sul social network che è Facebook. E niente, siamo arrivati tra l'altro a un buon punto, siamo arrivati tra i 60 finalisti e quindi ho avuto il piacere di rincontrare Gianni Morandi, con il quale avevo già duettato all'interno della scuola di Amici. Non si ricordava, io, vabbè. Figurati, cioè, nel senso, io vabbè, comunque ero veramente emozionata, ecco. Non è che se canti sul palco di Amici dopo non senti niente quando vai su altri palchi, anzi ogni live, ogni palco, ogni rete TV, ogni radio è sempre un'emozione. Certo, l'ascoltiamo. Questo cielo, io mi chiedo se il suo tuono fa paura anche a te. Torno a momenti già vissuti, sbagli ripetuti, ma non sono come lei. Dolce questa voglia dei suoi riccioli, pazza nel bruciare i miei desideri. Che succede non lo so, e non ci penso, prendo tempo per cadere ancora un po'. E sai, tutto ciò che non ha lui, le tue labbra delicate per volare ancora un po'. E luce rinnovata da questa alba, io ti chiedo di svegliarmi e scaldare anche lui. Per momenti già vissuti e sbagli trasformati, perché ora voglio te. Folle mareggiata di serenità, lasciami annegare nei miei desideri. Io, che succede non lo so, e non ci penso, prendo tempo per cadere ancora un po'. Sai, tutto ciò che non è lei, e il tuo viso consumato per volare ancora un po'. Per cadere ancora un po'. Io, che succede non lo so, non ci penso e prendo tempo per cadere. Ciò che non è lei, il tuo viso delicato per volare ancora un po'. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sei andata molto avanti con questa canzone. Sì. Sì, sì, siamo arrivati a un buon punto. Vabbè, comunque ci riproveremo, ecco. Ancora i ragazzi della mia music devono stare con me per un buon po' di poi tempo. Anche stasera, Maurizio, scusa se mi interrompo. Sì, sì, vai, vai. Anche stasera resti un po' di più, eh. Alberto sì, ci... è vero. Alberto gli concede 10 minuti in più perché è dice vero. è troppo gettonata stasera, quindi è giusto che tu stai qua ancora. Allora dice, c'è una domanda per te. Dice, e intanto comunque continuano ad arrivare messaggi qua, dice, una domanda per Cassandra, se hai voglia il giorno più deludente della tua vita, una domanda simpatica. Se non ti va di rispondere alla più grande figuraccia della tua vita. Aspetta, il giorno più? Allora, ti chiede se hai voglia di dire il giorno più deludente della tua vita. E tra parentesi dice, è una domanda simpatica, se ti va puoi anche non rispondere, insomma. Ah. In pratica vuol sapere la più grande figuraccia della tua vita. Ah, bene. Oddio, ce ne sono tante. Io ne faccio tante di figuracce. E non so... Non mi viene in mente adesso. Neanche una, via, facciamo così. No, sai quando ti chiedono una cosa e non ti viene in mente? Dopo il prossimo brano. Tanto ci penso. Figura. Ah, guarda, potrebbe essere proprio questa la più brutta figura, quella che sto andando a fare adesso. Ma diceva Marco che questo pezzo Marco l'ha scritto in un giorno praticamente. Quello di Sanremo. Sì, sì. Che ha una dimensione proprio sanremese, ci ha messo tutti i colori giusti praticamente. Sì, guarda, noi poi avevamo appunto il dubbio se fare o no, poi io sono molto indecisa. Come donna su alcune cose proprio ci metto tempo. Prendo tempo, sta proprio a pennello e infatti poi gli ho fatto fare le corse ai ragazzi, però sono stati altrettanto bravi anche per questa occasione. Beh, insomma, in 2 ore avete fatto la canzone, mi diceva sì, Alessandro. Sì, infatti quindi... io l'ho cantata proprio così, insomma, ho cercato di sentire il possibile. E sei arrivata in finale. E infatti. Sostenere te e la tua voce per 4 anni è stato un onore e continua ad esserlo. Non arrenderti mai, credi sempre in te stessa e nelle varie opportunità che la vita ti riserva. Nel mio piccolo sarò sempre qui al mio posto ad inseguirti e a tifare per Cassandra. Non quella di amici, ma quella forte e allo stesso tempo fragile. Quella che sostiene ancora di dover trovare una sua identità musicale, ma che in fondo l'ha sempre avuta. Continua ad emozionarci, Eleonora. Grazie mille, Eleonora. Sì, vabbè, può darsi appunto che io abbia già questa identità, come dice Eleonora, solo che fa paura anche a me e tra l'altro forse fa paura anche alle persone che credono in me e che... sai, è difficile investire ultimamente, si perde e basta adesso ad investire, certo. Almeno che tu non faccia un investimento su una persona già affermata o comunque insomma che abbia vinto qualche programma o altro, perché altrimenti veramente vai alla cieca. Sei la mia cantante, la mia stella e il mio orgoglio, ti sto ascoltando stellina e ti voglio tanto bene, Chiara di Vicenza. Grazie Chiara. Poi ancora un saluto da Angela di Anzio e da Francesca di Milano e qui Cassandra manca da morire. grazie mille. Poi ancora, buonasera, ringraziamo nuovamente Cassie che ci regala bellissime emozioni da più di 4 anni e non ci stanchiamo mai della sua voce. Un abbraccio, Lau e Mala. Grazie mille. Grazie poi mille. Ancora, vogliamo vederti ballare, prendo tempo. Ah, no, guarda, non è un bello spettacolo. Farai io... un video. No, io devo dire la verità, no, io... Sì, sì, mi approccio molto bene. Sì, sì, il ballo è. Io penso di essere una ballerina mancata in qualche modo. Ah, sì? Non lo sapevo. Sì, sì, sono molto, molto critica anche nel ballo. Io anche danza classica, a parte che non so neanche fare un plié, un demi-plié, però cos'è? mi piace. Cosa sono? Quando metti i piedi uniti e devi andare giù con le ginocchia, il plié oppure... Sì, perdonami l'ignoranza. Poi dopo ti faccio una lezione. Grazie. Di danza classica. Sei un tesoro, un amore. Cassandra, sentici che ci fai ascoltare una canzone e poi ci diamo gli saluti, poi diciamo del disco, eccetera, dove si può trovare con tanto. Sì, adesso facciamo un brano, poi dopo chiuderemo con un altro. Mm-hmm. Il brano che andiamo a fare adesso appunto è per un regalo per i 10 minuti in più che sono stati regalati a noi. Devi ringraziare Alberto. Infatti ringraziamo Alberto ed è diverso, tra l'altro appunto io e Marco non ci eravamo trovati per questa adesso, quindi è un'improvvisazione. Un'improvvisazione. Bene. Quindi, sì, la sì. Più brutta figura che hai capito è quella. Allora Marco. La canzone si chiama Diverso. Sì, diciamo che vuol far comprendere che non è un limite essere diverso, ma è un arricchimento. quindi nella società, sai, ci sono tante volte che uno dice una persona è diversa, può essere per l'omosessualità, certo, o insomma, certo, tante altre cose che conosciamo bene. E quindi, siccome io sono contro tutto questo, come spero insomma tante altre persone vicino a me, e abbiamo voluto, ecco, inserire questo brano nel disco. E anche per quanto riguarda gli arrangiamenti, vabbè, questa è diversa, giusto Marco? È più... Si intitola diverso. Sì, sì. Che è diverso, è un arrangiamento un po' complesso tra il folk, sì, e latinoamericano. Esatto, certo. Bravo. Ecco, posso... Basta. L'ascoltiamo. Ascoltiamola. Ognuno ha una pagina di un libro da riempire e non lo fa. C'è chi potrà pensare male poi nel leggerla. Il succo è di qualcosa di nascosto e non comune che ci doggicherà. Un essere diverso. Sé. Ognuno ha paura che le proprie scelte possano ferire chi li vuol bene, ma che non può comprendere, e così le tiene lì, legate strette, strette. È un nodo che non va giù. Non è un essere diverso perché non si considera naturale un mondo che non è come te. È inconcepibile perché non si desidera di contemplare un'altra realtà, di una storia unica, e anche se un po' distante. Da te. E ognuno ha la propria vita, colori, sfondi e particolari. E non è vita se non si piglia quello che ci dà. Lei va a spirale la verità per te, senza giustificarti perché si considera innaturale un mondo che non è come te. Non è impossibile perché non si desidera di contemplare un'altra realtà, una storia unica, ma solo un po' distante. Se quello che tu senti forte crescerà, se ti fa stare bene grande si vedrà, il tempo tutto scioglierà. Sveglio ora, sono semplici. Non è diverso ma unico, perché si considera innaturale un mondo che non è come te. È inconcepibile perché non si desidera di contemplare un'altra realtà, perché è distante da te, perché poi si considera diverso chi non è uguale a te. E almeno aspetta un po' a giudicare chi desidera qualcosa a cui non hai pensato te. Tanto un po' non è impossibile. bravissima. Come l'hai tirata? Ero lì che bravissima. Dove fermiamo? Dove ci fermiamo? E qui è venuto fuori il latinoamericano che c'era in questo pezzo. Un pezzo che ero incerto se scegliere Tu sarai o questo qua, che era molto intrigante, aveva un sacco di colorazioni. E poi l'avete fatto benissimo qui in live. Sì. E l'avete proprio inventato di sana pianta, vero? Manca, sì, assolutamente. Sì. Diciamo che manca veramente tanto, perché nel live abbiamo inserito anche il cosa? Il bonghi? Il bonghi. Io faccio, sì, io chiamo Bunga Bunga, però. Bunga Bunga. Ascolta, guarda che i messaggi che ti ho letto fin qui erano pochi, perché ce ne sono altrettanti. Li troverai su Facebook, sono tantissimi. C'è Salvatore da Luna che dice: ciao Cassi, sei mitica, spero tornerai un giorno a Catania. Poi ancora Elena, grande Cassandra De Rosa, questo showcase acustico è fantastico. Emilia dice: grazie per aver invitato Cassandra, fantastica come sempre. Grazie. E Angela Ricchiello dice: collegata dalla provincia di Caserta, grandi dischi e poesie. Grazie. E poi ancora, assurdo pensare, grandi Cassi, ti stiamo ascoltando e siamo super orgogliosi. E poi ancora Salvatore De Luna: Cassi, potrei cantare una piccola parte di I Will Always Love, quella di Dolly Parton. E poi ancora Eleonora dice: Cassi, per chi ti giudica, per chi ti critica dovrebbe ascoltarti. E poi questo è il team, l'abbiamo detto. Claudia Liguori: bravissima Cassi, come al solito ti fai valere. Adesso okay. Poi ancora Mara Password di Stefano: bravissima come sempre la nostra Cassi. grazie mille. Francesca dice: Cassi, sono arrivata ora e mi fai un pezzettino di Semplicemente, ma ce lo fai. Assolutamente, chiudiamo con quella, quindi sì, insomma, sì. Qui ce ne sono tantissimi, mi scuso se non li ho letti prima, ma ci siamo accorti adesso e qui continuano ad arrivare comunque. Bene. Ci salutiamo adesso. Okay. Aspetta che vediamo se c'è qualcosa di veloce. Diverse opportunità, le mie due preferite, grazie per questo live in radio, spero di poterle risentire presto live anche quest'estate. Da Firenze. Grazie mille, Kia. E guarda, io colgo l'occasione appunto per ringraziare di nuovo i miei produttori, Marco Gabrielli e Alessandro Pagliaro. E Marco lo ringrazio un po' di più stasera, visto che si è concesso, insomma, e si è lasciato sfruttare da me per spiegare tutti gli arrangiamenti. E poi ringrazio anche voi perché mi avete dato, insomma, l'opportunità di fare un live tutto mio, radiofonico. Ma ti aspettiamo per il prossimo, eh? sì. Cioè, Alessandro, io invece avevo intenzione, magari con tutti i cantanti che comunque hanno fatto i live qui come me, magari potevamo, che ne so, organizzare una bella serata in piazza con Blu Radio Veneto, non si sa mai. Bella idea. Un'idea. Voglio dire, noi siamo disponibili, poi loro sono di Padova. Ti piace Johnny Mitchell? Non lo conosco. Non importa, se no ti facciamo un invito. Comunque posso sempre conoscere, quindi no. Allora, Cassandra, intanto grazie, Blu Radio Veneto, ti ringrazio di aver partecipato questa sera, di aver aderito al mio invito, insomma, di essere qui. Ti ringraziamo di questa tua disponibilità. Ti diamo appuntamento per il prossimo disco. Sì. Prima però, velocemente, dove possiamo trovare, se chi volesse ascoltare la tua musica e dove volesse acquistarla, e il tuo sito, insomma. Allora, www.cassandraderosa.it è il mio sito ufficiale, dove vieni mandato automaticamente su iTunes, dove puoi trovare Semplicemente Sole, il disco. Uh-huh. E poi anche su Facebook, sulla mia pagina ufficiale, abbiamo inserito i brani. Quindi se uno, appunto, prima di comprarlo lo vuole ascoltare, lì li può ascoltare tutti, su Deezer si chiama il programma. E poi c'è anche il sito della mia music, lo saprà Marco! Vabbè, insomma, comunque anche tramite mia music, ecco, mi potete cercare. Poi c'è anche Marco Gabrielli e Alessandro Pagliaro, che sono su Facebook, disturbateli volentieri, perché loro, appunto, non vedono l'ora di rispondere alle vostre domande. E nei negozi anche. Sì, dei negozi c'è, nella Media World, Feltrinelli e Mondadori. Sì. Benissimo. Ancora grazie Cassandra, grazie anche a Marco. Sì. Grazie a voi. E grazie ad Alessandro per tutte le nostre telefonate che ci siamo fatti, Alessandro. E ti aspettiamo per il disco nuovo, allora, va bene? Ok, grazie mille. Noi ci risentiamo lunedì, Maurizio, con il sottoscritto. Con Stefano, sì. Con Stefano. Esattamente. E poi sarò di giovedì qui con un cantautore. Ci lasciamo con Semplicemente il Sole e lascio anche, appunto, un saluto speciale a tutti i miei sostenitori e stasera anche un grande saluto a tutti i radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Grazie Cassandra e buon ascolto. Prego. Grazie. fermami se sto scappando, scusami, non so aspettare, insegnami e fammi crescere, scavami, ho voglia di confondermi e a volte credo agli angeli, approfittane, ho bisogno un po' di un abbraccio, sai, di trasformare i miei battiti e coglimi e di sorpresa inseguimi di notte al mare, portami nell'acqua io e te, amami, fa trappole di brividi e la tua testa appoggiala sul mio ventre, e quello che tu puoi cambiare in me non sai, e prendimi e tienimi così, semplicemente il sole, dai, con te non sono al buio mai, consumami se vuoi, reinventami se puoi, respiro a fondo insieme a te, e seguimi e andremo in capo al mondo e poi giù in fondo negli oceani, di me non dubitare mai, credo che gli uomini non siano mai monogami, quindi credo solo ad attimi in cui mi amerai, e veramente tu stravolgi i giorni miei e prendimi e tienimi così, semplicemente il sole, dai, con te non sono al buio mai, consumami se vuoi, reinventami se vuoi, respiro a fondo insieme a te. Naturalmente mi fai sperare nel domani, dormire sonni buoni, io respiro a fondo insieme a te. Tu che puoi, proteggimi da grandini, da grigi cieli sterili, e da quello che non ho, e scalda qua e penetra nell'anima, tienimi stretta a te così, semplicemente il sole, dai, con te non sono al buio mai, aspirami se vuoi, distinguimi se puoi, respiro a fondo insieme a te. Grazie mille.